que ça et tu le sais. Quello che sai tu lo so. Quindi troviamo un modo. Se no mi richiudo di nuovo. Solo se sto male funziona. Tu ti commuovi, io cucimaio. Sento le brezze nel modo che ho. Facile per te perché io vado a vuoto. Mi sento cupo e mi odio nel profilo. Sono bianco latte, vivo 100 anni o poco di più. Ho sempre visioni varie e strane. Lasciamo stare, dai portami tu. 100 ragazze uguali, tu sei quella che tra tutti amo di più. Non sento più cose strane, varie. Forse perché non mi rovini il mood. Quello che amo di più tra tutte. Facciamo a pugni se non risolviamo le cose. Lasciamo stare il mio cuore. Ok baby ma dammi controlle. Fuck out I'm away you calling. Lasciamo stare queste cose. Dimmi solo se. Quello che sai tu lo so. Quindi troviamo un modo. Se no mi richiudo di nuovo. Solo se sto male funziona. Tu ti commuovi, io cucimaio. Sento le brezze nel modo che ho. Facile per te perché io vado a vuoto. Mi sento cupo e mi odio nel profondo. Assecondiamo tutto perlomeno. L'aria che respiro mi fa stare bene. Togli tutti i dubbi che hai con me. Prendo confidenza con tutti i problemi che ho. Lasciami comprendere, yeah. Vengo giù dalle tenebre. Tu non sai cosa vuol dire aspettare di crescere. Io non ho mai fatto del male, nessuno a prescindere. Non rimane, te ne vai via da me. Quello che sai tu lo so. Quindi troviamo un modo. Se non mi richiudo di nuovo. Solo se sto male funziona. Tu ti commuovi, io cucimaio. Sento le brezze nel modo che ho. Facile per te perché io vado a vuoto. Mi sento cupo e mi odio nel profondo.